900 di Radio Onda Rossa. E dunque vi presentiamo adesso invece un'iniziativa che dovrebbe svolgersi, svolgerà alla fine di aprile al cinema, l'ex cinema occupato Volturno. È un'iniziativa che insomma crediamo sia abbastanza importante, perché racconterà delle lotte che si stanno svolgendo ormai da tempo in America Latina da parte delle popolazioni locali contro i progetti a volte anche insomma grandiosi, monumentali, che Green Power, Enel e le sue consorelle, consociate, soprattutto Endesa, insomma quella spagnola, stanno tentando di portare avanti appunto in diverse regioni del continente, nella Patagonia cilena. E beh, molto insomma si è detto grazie anche a un documentario di un compagno italiano, Bruno Federico, a proposito del progetto idroelettrico El Quimbo in Colombia. Insomma ci sono diverse esperienze su cui vale la pena insomma riflettere, confrontarsi anche con chi sta organizzando questo tipo di iniziative a forte contenuto e partecipazione popolare. Quindi ci fa molto piacere insomma parlare di questa iniziativa. Lo facciamo con una compagna che è con noi al telefono. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, allora insomma le sono molto significative queste lotte, proprio perché hanno una connotazione fortemente popolare e molto partecipata, e certamente ci spingono a un confronto, anche perché insomma abbiamo bisogno, no, anche un po' di imparare probabilmente da queste lotte, anche perché qui da noi insomma le grandi opere rappresentano, no, una minaccia e allo stesso tempo una situazione di lotta su cui si sono costruite insomma tante iniziative negli ultimi anni. Sì, diciamo che l'iniziativa della fine di aprile, precisamente saranno tre giorni di iniziative, 28, 29 e 30, è promossa dalla rete Stop Enel, che è una coalizione molto ampia che mette insieme non solo comunità resistenti in America Latina, ma anche comitati italiani come la rete No Coke, che resistono contro i progetti di centrale a carbone di Enel, molto diciamo nota a noi romani la questione di Civitavecchia, ma in realtà sono diversi i comitati che fanno parte della rete No Coke. Quindi la rete Stop Enel nasce proprio con l'obiettivo di cercare di creare un'alleanza larga internazionale per fermare un modello energetico della nostra società, perché in parte ancora di proprietà pubblica, per il 31% Enel ancora appartiene ai cittadini italiani, e quindi cercare di fermare progetti devastanti e convertire il modello energetico di Enel in un modello maggiormente sostenibile e soprattutto rispettoso dei diritti della popolazione locale, e che riesca a coinvolgere la popolazione locale nelle scelte che riguardano i propri territori. Assolutamente. Senti, come si svolgerà questa iniziativa? Avremo una prima vera e propria assemblea internazionale domenica 28 al Volturno, appunto. Il 29 stiamo organizzando sempre al Volturno un seminario di approfondimento sul mercato dei crediti di carbonio, cioè quei meccanismi che sono stati diciamo incorporati nel protocollo di Kyoto e che hanno rappresentato un incentivo devastante alla creazione di grandi opere inutili, soprattutto infrastrutture energetiche. E parleremo un po' del ruolo di Enel, di come Enel utilizza questi meccanismi finanziari per continuare a produrre devastazione. E invece martedì l'appuntamento è proprio davanti all'Enel, in occasione dell'assemblea degli azionisti. Ci sarà un sit-in, diciamo un'azione che sarà colorata e speriamo partecipata, e quindi invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione che sarà nel pomeriggio dalle 2 in poi a Viale Regina Margherita davanti al quartier generale della società. Ho capito. No, senti, dicevi invece che il primo giorno si caratterizzerà proprio con una grande assemblea, ma a cui parteciperanno anche esponenti delle lotte che si stanno conducendo appunto in America Latina? Sì, saranno presenti dei rappresentanti delle comunità colombiane, hai citato tu prima la diga del Quimbo, che sicuramente in questo momento è la situazione anche più repressiva, diciamo la resistenza a questa diga è stata già repressa molto violentemente dall'esercito, saranno presenti i rappresentanti delle comunità Mapuche in Cile e delle comunità Patagone, che sono diciamo a rischio di vedersi il territorio devastato da un mega progetto di 5 dighe che si chiama Hidroaizen, e saranno presenti anche le comunità Maya e Xil della regione del Quiché nel nord del Guatemala, dove Enel ha recentemente completato un impianto dentro una finca, ovvero un grandissimo latifondo di un oscuro personaggio con cui Enel ha diciamo fatto un accordo, è un'enorme piantagione di caffè dove si pratica ancora il lavoro minorile, quindi anche diciamo alleanze da parte della società italiana molto molto discutibili. Ci saranno loro, ci saranno i comitati italiani dal carbone ma anche alla geotermia sulla Miata, e insieme cercheremo di capire come portare avanti un lavoro comune sia in Italia che a livello internazionale. Perfetto, beh insomma è una iniziativa davvero importante e interessante, oltre chiaramente a porre in rilievo una questione fondamentale come quella energetica, ma lo si fa anche a partire da ciò che combinano diciamo le nostre multinazionali altrove, quindi è anche un modo per così analizzare come dire l'attività di queste aziende nostrane insomma all'estero, e davvero ne combinano di tutti i colori, non solo in America Latina bisogna dire, perché anche nel continente africano insomma sia l'Enel che l'Eni insomma riducono purtroppo le condizioni di tante popolazioni allo stremo per via dei loro progetti e dei loro affari, e va benissimo, quindi alla fine ci sarà invece proprio un'iniziativa diciamo così di piazza. Sì, sì, ci sarà diciamo un'iniziativa di protesta per diciamo mostrare a Enel e soprattutto ai suoi azionisti che questo tipo di investimenti sono anche deleteri per la stessa economia della società, perché comunque in Colombia per esempio il progetto è stato ritardato, è ritardato da un sacco di tempo perché comunque c'è una resistenza molto forte, c'è una battaglia legale in corso, quindi noi vorremmo anche comunicare agli azionisti stessi di Enel che cambiare il modello energetico, cambiare il modo in cui si investono i soldi della società verso una modalità più rispettosa dei diritti delle popolazioni locali, conviene anche a chi investe. Va benissimo, senti, ricordiamo bene qual è il programma, così magari chi è all'ascolto se lo può annotare. Il programma è il 28, ci vediamo al Cinema Molturno alle 10 per questa assemblea, alla quale abbiamo invitato anche altri comitati a partire dal Forum dei Movimenti per l'Acqua, che è parte integrante, uno dei promotori della campagna Stop Enel, e saremo lì tutto il giorno in assemblea. La mattina ci ritroviamo di nuovo al Molturno alle 10 per l'approfondimento sugli aspetti finanziari del mercato energetico. E poi il 30 alle 14 a Viale Regina Margherita a 125 di fronte alla sede dell'Enel per un sit-in che ci auguriamo sia partecipato da tutti. Va benissimo, grazie per il tuo intervento e a presto. Grazie a voi, ciao.